Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Da Olga ed Eps, ben ritrovate e ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia contemporanea, in onda ogni sabato pomeriggio alle 14 sui 103.1 di Radio Città Fujiko, oppure dallo streaming del sito. Oggi in redazione è completamente al femminile, anche se in realtà buona parte questa redazione è fortunatamente al femminile. Ancora più consapevoli della nostra appartenenza di genere oggi, perché passando a cose serie, registriamo questa puntata dopo aver partecipato alla manifestazione del 24 novembre a Roma, ovvero la manifestazione indetta da Nuna di Meno contro la violenza di genere sulle donne. E oggi invece ci accingiamo a registrare una puntata su donne e antifascismo. E è chiaro che quindi diciamo quando avevamo pensato questa puntata non immaginavamo probabilmente di portare tutta l'energia che abbiamo di cui siamo stati invasi a Roma, di portarla in radio oggi. Quindi sicuramente questa puntata che parlerà di donne e antifascismo vuole anche trasmettere un po' di adrenalina, di vivacità e di energie positive che abbiamo incanalato durante il grandioso corteo del 24 novembre di Roma. Fino a non molto tempo fa il binomio donne e resistenza era sempre rappresentato dall'immagine della staffetta, comunque una donna, donne comunque in maniera ausiliaria a chi il partigiano lo faceva davvero, comunque un ruolo di secondo piano, un ruolo stereotipato e così subordinato via. Anche no? Assolutamente. Invece le donne erano relegate al ruolo appunto di aiuti, di tutti che incorporavano un po' anche i lavori di cura che magari portavano avanti nel quotidiano. Ovviamente la storiografia per fortuna è andata avanti, grazie ovviamente anche al contributo di molte storiche che hanno rivalutato ovviamente i ruoli delle donne all'interno di ogni periodo storico e in particolare anche della resistenza. Ricordiamo che però non è stato facile anche dal momento stesso in cui la parte che aveva vinto, ovvero la resistenza, cioè i partigiani, il mondo della sinistra, tutto il mondo antifascista in generale, da quello più istituzionale a meno, ha avuto difficoltà a riconoscere lì per lì il contributo delle donne combattenti o delle donne in generale, ma anche di chi ha fatto la resistenza non in armi, perché questo è anche uno dei temi, nel senso che se le donne, se non si riconosce come resistenza effettiva solo chi effettivamente aveva combattuto, e le donne ovvio che c'erano, che avevano preso le armi ma erano di meno, è chiaro che anche le donne stesse di conseguenza vengono meno nella rappresentazione storiografica, nella rappresentazione anche del racconto storico, nelle celebrazioni, nei riconoscimenti e così via. Ecco Debs, io ti stoppo subito e dopo questa bella premessa noi ci andiamo a sentire la canzone di una donna, ovviamente, e anche riallacciandoci alle donne del Novecento non potevamo che cominciare che con Janis Joplin. I'm still in love with you, and I'm all alone in need. siamo su Vallun, sui 103.1 su Radio Città Fucico. Noi siamo Debs e Olga e stiamo parlando, abbiamo cominciato anzi a parlare di donne antifascismo. Per cominciare questa puntata, che è un breve percorso biografico, quindi con spunti sì storiografici ma soprattutto biografico su alcune donne, io comincerei con una donna e un fumetto. Una donna che è molto famosa e che è antifascista, che però la resistenza non l'ha fatta perché è morta nel 1943. Parliamo di Tina Modotti, la fotografa rivoluzionaria, una donna che con la sua stessa vita ha rappresentato e vissuto le istanze di questi sconvolgenti anni 20. Tina Modotti è conosciuta, un personaggio straordinario, ma vale la pena riscoprirlo e riparlarne. Lei è friulana, emigrata con la famiglia nei primi del Novecento, era giovanissima, quindi negli Stati Uniti, si trova ad essere operaia e lavorare nel mondo del cinema muto. Viene scelta come modella per la sua bellezza mozzafiato da pittori e fotografi, ed ella stessa diventa una artista capace di monopolizzare l'attenzione e la forza, cosa che come sappiamo negli anni 20 non era molto facile. Il passaggio fondamentale della vita di Tina Modotti è quello dell'avvicinamento alla causa comunista. Negli anni della nascita appunto del movimento comunista e poi e prima della rivoluzione bolscevica. Quindi lei si forma col mito della rivoluzione bolscevica, cioè la rivoluzione da seminare ovunque e l'incubo della borghesia. Ci siamo immersi nella lettura di uno dei fumetti dedicati a lei, Modotti, una donna del XX secolo, del fumettista spagnolo Ángel de la Calle, edito da 001 Edizioni nel 2013. Nel primo dei due volumi della Calle si concentra sull'esperienza messicana di Tina, mostrandoci passo dopo passo, accompagnati dalle sue riflessioni e sulla sua scoperta del personaggio, il suo avvicinamento alla politica. Se è facile liquidarlo come fanatismo, il comunismo di Tina è il comunismo di una donna degli anni 20, che conosce i rischi di una militanza politica che punta però ad un miglioramento possibile sull'esempio russo e che vede la sua patria d'origine, l'Italia, sconvolta da una dittatura feroce e sanguinaria. L'impaginazione di questo percorso è quella tipica di un certo fumetto di realtà spagnolo, vignette di piccole dimensioni come tante polaroid, in cui si muovono scene raccontate da lunghe didascalie, che però non appesantiscono la lettura. Il risultato è una lettura che non giudica un personaggio difficile da comprendere per certi versi, ma che allo stesso tempo ci vuol far scoprire a mano. Un bel modo veramente di scoprire un personaggio così straordinario come Tina Modotti attraverso un fumetto e non un solito libro. E noi ci andiamo a sentire un po' di musica. Andiamo a sentire degli Atalassia Group, che ci piacciono un sacco, molto, che si chiama L'ultimo minuto di Gianna. Prima che fossi in difetto, per quanto constavo sia di aver fatto del silenzio la mia sola compagnia, avevo pelle bianca come il cielo di Natale e non lividi grandi e scuri come il temporale. È tanto evidente anche a chi non vuol capire che al mulo si dan botte solo se non vuol partire, ed è così che han preso a calci questa donna silenziosa, fiera come una bandiera, fragile come una rosa. Se chiedo di fare veloce, perché attendere la morte è peggio che stare già in croce. E che strana primavera, i giorni passano al contrario, e dopo il 25 aprile torna il buio di febbraio, e si indurisce secca come il pane di tre giorni, alla vista del potere, il cuore degli ingorni. Perciò non mi stupisce che ignoriate il mio dolore, tenetevi la gloria. Se volete, io mi tengo l'amore. Noi rientriamo sulle note degli Atarassia Group, siete sempre su Radio Città Fucico e siete su Vallunni, in una puntata tutta al femminile. Abbiamo appena parlato di Tina Modotti e Debs ci ha detto qualcosa su Donne e Resistenza, adesso entriamo dal vivo. Avrei voluto che in questo studio storico del CLN si parlasse un momentino dei gruppi di difesa della donna. E devo confessare che quando sono venuta qui a parlare ero seccata perché dico: ma proprio io devo venire a parlare delle donne? Tutti gli uomini che hanno parlato prima forse pensano che parlare delle donne non sia virile? Allora io vorrei che qualche giovane studente, senza distinzione di sesso, non facciamo discriminazioni, volesse fare oggetto di studio quello che è stato il movimento femminile durante la Resistenza, dall'8 settembre al 25 aprile, per arrivare poi a vedere quella che è stata l'azione delle donne uscite dai gruppi di difesa e dei CLN, nelle varie amministrazioni o nelle posizioni di governo o di amministrazione che hanno avuto poi allora. Debs dà la voce a un'importantissima donna della Resistenza che è Ada Gobetti. Siamo a Torino nel 1965 e lei è l'unica donna chiamata a parlare in questo convegno del CLN, del Comitato di Liberazione, tenutosi proprio a Torino. Sono passati 20 anni da quel 25 aprile e lei è appunto l'unica donna, cioè sembra che sia un po' sommessa, no? All'inizio chiede scusa se le ruba un po' di tempo al pranzo, questo è un leitmotiv abbastanza ricorrente nelle donne. Nel suo diario, per esempio, che è una delle testimonianze più importanti della sua vita assolutamente straordinaria, molto spesso è come se ci chiedesse scusa per il fatto che sta scrivendo un diario. Lei ha scritto un diario che si chiama proprio Diario Partigiano, edito nel 1956 da Einaudi e riedito poi fino adesso. Ci scrive questo diario che parte il 9 settembre 43 e arriva al 27 aprile 45. Ada Gobetti scrive questo diario partigiano in un inglese cifrato, così che se fossero arrivati i nazisti o i fascisti l'avrebbe subito gettato via, oppure se l'avessero trovato sarebbe stato molto difficile decriptarlo. Ada Gobetti è una donna di quasi 40 anni nel 1943, ha un figlio di 20 che è partigiano come lei, ed è figlio di Piero Gobetti, che era morto una ventina di anni prima a seguito delle botte che aveva ricevuto dai fascisti in Francia. E adesso, dopo l'8 settembre, lei è a Torino, lei è insegnante, traduttrice di inglese, un intellettuale a tutto tondo, anche se in questo diario partigiano, come dicevo, lei non si sente un intellettuale. Lei dice sempre: sono circondata da intellettuali, ma io intellettuale non sono. In realtà lei è una grande donna che prende a quasi 40 anni le armi e le prende davvero, e soprattutto va a combattere. Nel suo diario ci sono pochissime donne, lei è quasi l'unica donna, quindi anche questo ci fa comprendere, in un diario scritto in presa diretta, che le donne o sono poche o non sono contate come partigiane, come diceva Debs prima. Lei soprattutto è la fondatrice dei gruppi di difesa. I gruppi di difesa sono dei gruppi appunto di donne che sono stati creati allo stesso tempo dopo l'8 settembre, quindi in concomitanza con la Resistenza, per fare appunto da legame tra i partigiani e la società civile. Ci sono staffette, ci sono donne che prendono le armi e sono tutte legate ai partiti più importanti di quel tempo. Ada Gobetti è legata a Giustizia e Libertà, che poi sarà il Partito d'Azione, e poi ci sono le donne comuniste e socialiste, anche qualche donna cattolica. Alla fine della guerra si conteranno 70.000 donne che hanno fatto parte effettivamente dei gruppi di difesa. Bene, ci stoppiamo un attimo per farvi ascoltare un po' di musica. Passiamo a Giuni Russo, Notturno dall'Italia. Spente dall'Italia ci faceva compagnia. Tu perché non scrivi mai? Il silenzio della terra mi sussurra una preghiera. Se non ti rivedrò, partiranno, saluteremo eserciti di eroi, vinceranno le regine della guerra. Fanalo, una voce da lontano canterà lì. Torniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko dopo la bella canzone di Giuni Russo e noi andiamo a parlare di una storia questa volta un po' meno conosciuta, però dello stesso, diciamo, con lo stesso fil rouge di Ada Gobetti. Parliamo di un diario, di una donna, ancora una donna che scrive un diario in tempo di guerra, di una donna antifascista e che ha la stessa età di Ada Gobetti. Ada Gobetti però la troviamo a Torino e in Valsusa, e invece Fausta Cialente la troviamo in Egitto, quindi cambiamo completamente scenario. Quella di Fausta Cialente è anche una vita intellettuale. Lei è una traduttrice ed è un'intellettuale, traduce dall'inglese ed è cresciuta nella cultura mitteleuropea di Trieste, perché la mamma è una nobildonna triestina. Prima della guerra aveva scritto un paio di romanzi abbastanza famosi e durante la guerra, a causa del lavoro del marito, si ritrova, anzi dalla fine degli anni 30, si ritrova in Egitto. E c'è una piccola comunità italiana, soprattutto ad Alessandria d'Egitto, che è una città molto vivace negli anni 30, ma l'Egitto, quando ci sarà la seconda guerra mondiale, non entra in guerra con qualcuno, se non che l'Egitto però è una terra di un protettorato inglese. Protettorato inglese, quindi è ufficialmente neutrale, ma di fatto è controllata dagli inglesi. Dal momento in cui gli inglesi entrano in guerra, gli italiani diventano nemici. Gli inglesi cominciano però una guerra di propaganda, una guerra sottile, non una guerra guerreggiata come dicevamo, ma questa guerra di propaganda, e aprono al Cairo quella che è Radio Cairo. Ci è piaciuta molto questa storia di vita di Fausta Cialente, perché abbiamo insieme al diario una radio. Gli inglesi di Radio Cairo chiedono a Fausta Cialente, antifascista italiana, di scrivere, redigere e fare una trasmissione intera che verrà ascoltata dai POPs, cioè quei prigionieri italiani che, con l'acronimo che significa Prison of War, sono in Africa, tra la Libia, l'Egitto e tutto il Nord Africa. Fausta Cialente, avendo visto il suo paese distrutto dalla guerra e distrutto soprattutto dal fascismo, non ci pensa due volte e per 3 anni, cioè dal 1941 alla fine del 43, sarà impegnata tutte le sere in questo programma radio. Noi abbiamo letto questo pezzo di vita di questa scrittrice nel libro di Maria Serena Palieri, che si chiama Radio Cairo, l'avventurosa vita di Fausta Cialente in Egitto. Il libro è nuovo ed è uscito da Donzelli. In questo libro ci sono stralci di diario che spiegano qual è la situazione in Egitto, che cosa fa Fausta, e ci sono i commenti della Palieri. In realtà il diario tutto, che va dal 41 e arriva al 47, è inedito e speriamo che in qualche modo venga pubblicato. Fausta Cialente poi non solo redige questa trasmissione su Radio Cairo in lingua italiana, ma poi dal 43 al 45 sarà la direttrice di un giornale sempre per i prigionieri italiani, che si chiama Fronte Unito, e si ispira infatti chiaramente all'antifascismo, dove scrivono comunisti, socialisti e liberali. Dopo il 45, Fausta finisce di scrivere il suo diario, la sua avventura, che è davvero un'avventura, al Cairo e poi Alessandria d'Egitto, finisce. Vince il premio Strega nel 1976 con il romanzo Le quattro ragazze di Weisselberg, romanzo in cui ricostruisce le atmosfere triestine, appunto, della sua infanzia. Bene, adesso io passerei, dopo tutti questi spunti biografici, passerei agli spunti bibliografici. Abbiamo cercato appunto di raccontare una storia di donne e resistenza senza fare il solito schema, passando dai gruppi di difesa da donna, che è stata, diciamo, organizzazione più strutturata, alle staffette, alle donne in armi, donne in armi sì, donne in armi no, e così via. Le madri dei figli partigiani, e cioè, nel senso, non volevamo fare, diciamo, raccontare cose, stimoli probabilmente che negli anni si sono avete probabilmente già sentito, no? Dalla decostruzione dei generi alla storia delle donne come completamento di una storia già esistente. Ecco, era solo un modo, questa delle vite, per entrare da un'altra porta in una storia che ancora dobbiamo raccontare e riraccontarci. Ha degli spunti molto soggettivi, cioè partiamo dai libri che hanno davvero formato la nostra vita, la nostra sensibilità come storiche al tema delle donne nella resistenza. Perché appunto parlare di donne resistenti vuol dire non solo parlare di donne che hanno combattuto il fascismo nel 45 nelle cascine della Bassa Emiliana o sui monti, ma davvero è continuare a parlare di donne che comunque resistono tutti i giorni a un'impostazione di genere o di qualsiasi tipo. E questo è un po' lo spirito che voleva accompagnare questa puntata. Io partirei comunque da un libro molto accademico, che però secondo me è fondamentale per, diciamo, capire la storia delle donne nella resistenza, che è quello di Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone, un libro famosissimo, In guerra senza armi, storie di donne 1940-1945, edito per la prima volta dalla Terza nel 2000. È un libro fondamentale che parla proprio, va oltre la dicotomia donne con le armi, donne senza armi, ma decide quindi di parlare della resistenza, dicendo proprio: ok, adesso parleremo proprio delle donne che le armi non le hanno prese, perché non è che per dire che una donna ha fatto davvero la resistenza, ha dato un contributo, doveva per forza prendere le armi. Certo, quello c'è stato, l'abbiamo riconosciuto ed è importante, ma diamo voce anche a tutta quella resistenza civile che è stata essenziale per un movimento come quello partigiano dell'Italia del 45. E c'è tutta un'analisi del quotidiano, milioni di tantissime testimonianze, dove si fa proprio vedere come far parte della resistenza o essere investiti dal vento della resistenza significasse anche mettere in discussione giorno dopo giorno la propria quotidianità, cambiare i propri stili di vita, mettere in discussione alcune scelte come sposarsi o non sposarsi, abortire o non abortire, come alcuni atteggiamenti ritenuti di maternage o di cure, raccontati in maniera errata come atteggiamenti naturali di donne, atteggiamenti di cura delle donne, che era normale che lo facessero perché era innato il senso di cura, in realtà devono essere rivalutati come atti politici, come atti come una scelta civica, una scelta sociale, una scelta politica nei confronti degli avvenimenti della storia. E uno degli esempi più classici è quello appunto delle donne che hanno aiutato i disertori dell'8 settembre, che avevano che si erano riversati all'interno della quotidianità di moltissime persone che erano rimaste appunto fuori dalla trincea, e moltissime donne erano andate ad aiutare in maniera quasi materna moltissimi soldati, rivestendoli eccetera. Anna Bravo e l'Abruzzone ci invitano a rivalutare questi atti sfuggendo da quell'analisi che vuole queste donne in un ruolo naturale, perché è naturale che si prendano cura di un uomo. Ci invita invece a raccontare queste storie, a prendere in considerazione come scelte ben precise, consapevoli o meno, ma comunque di una consapevolezza di fare qualcosa che teoricamente non andava fatto. Erano pur sempre disertori, e loro scelgono di stare dalla parte di chi la guerra l'aveva rifiutata. L'altro libro che cito è sempre dell'Abruzzone, di Rachele Farina, che si chiama La resistenza taciuta, 12 vite di partigiani piemontesi, della Boringhieri, edito per la prima volta nel 2003. Anche questo un libro di testimonianze e di racconti. Poi l'altra citazione è quella di un documentario uscito nel 2017 grazie all'aiuto dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, con musiche originali di Giorgio Canali, che è il documentario Libera di Rossella Schillacci, ed è un documentario che vi consigliamo vivamente, perché anche questo parte dalle testimonianze ma intreccia anche il materiale d'archivio, che si può vedere anche durante il documentario, ed è molto bello in realtà vedere questo tipo di fonti proprio proiettate addirittura nel documentario, e storie di vita, testimonianze e così via. Che cosa accomuna queste cose, questi prodotti, ma non solo, ce ne sono anche altri? Sicuramente il fatto delle testimonianze, di partire di sé, da sé, di raccontare una resistenza che non è solo quella del partigiano maschio in armi, ma che racconta che le donne hanno fatto tutto e di più di quello che viene comunemente raccontato all'interno della resistenza, che questo avvenimento politico ha anche messo in discussione la propria vita, partendo anche dallo destabilizzare i ruoli di genere all'interno della propria quotidianità, e che molte volte queste donne hanno sentito una forte delusione dopo il 45, perché purtroppo si è tornati alla vita di prima. Per molte appunto la resistenza, ma appunto immaginiamo questa resistenza non solo come andare in montagna al freddo, ma anche resistenza stando appunto in città, nei gruppi di difesa, portando da una parte le armi, qualsiasi tipo di azione ovviamente legale, con armi o senza, che aveva previsto di fare una scelta, aveva anche comunque portato un cambiamento di relazioni fra i compagni, e non solo, e di aspettative di vita e così, e anche la grande idea di che dopo il 45 anche molte cose per le donne sarebbero cambiate. Purtroppo non è stato così per molto tempo, che c'è stato il diritto di voto nel 1946, ma in moltissime testimonianze si sente la delusione di tornare alla vita di prima, per gli aspetti appunto più negativi. Ecco, un'altra cosa che vorrei consigliare, ma piccolissima, che in realtà è più un opuscolo, redatto da Renata Viganò nel 1955, che vi consiglio caldamente di andare nelle biblioteche di Bologna a prenderlo, sfogliarlo, guardare questi fogli gialli. È un piccolissimo opuscolo che Renata Viganò dedica alle donne bolognesi della Resistenza, e si chiama più Donne della Resistenza, di Renata Viganò, della STEB di Bologna. Renata Viganò, che ricordiamo è una partigiana, ed ha scritto il romanzo famosissimo L'Agnese va a morire. Esatto, proprio lei. E lei, cioè, volevo citare proprio per questa introduzione a questo opuscolo, che dice, la dedica, diciamo, alle donne di Bologna è dedicata a questa memoria di donne cadute come soldati in guerra per la Resistenza. Serva la loro testimonianza a rendere più estesa la lotta, più libera la strada verso la vittoria di un ordine nuovo, di pace, di lavoro e di libertà, non lontano ormai nell'avvenire. Cioè, la resistenza per le donne è andata chiaramente dopo il 1945, e anche questa piccola dedica di Renata Viganò, in questo piccolo opuscolo, insomma, attende a questo futuro. Staremmo a parlare per ancora moltissimo tempo, ma in realtà il tempo è tiranno, e quindi vi auguriamo un buonissimo pomeriggio, anche se è un po' freddo e mi raccomando, leggete di donne della resistenza. E andate a visitare il nostro sito che è www.radiovallun.info. Buon pomeriggio a Debs e Olga. Ciao!